La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле-еле. In uno dei loro incontri parigini, Giacomo Casanova e Madame de Pompadour parlarono dei posteri e lei disse: «Caro Giacomo, voi vi illudete, tra pochi anni nessuno saprà più chi era Casanova né Madame de Pompadour». E invece si sbagliava, perché la Pompadour è rimasta molto popolare, molto famosa, e effettivamente la sua storia vale la pena di raccontarla. La madre le diceva sempre, una frase piuttosto volgare: «Sei un boccone da re». Ma lei taceva, con quieto sdegno. «Ma come boccone? Quale boccone? Sarebbe stata lei a divorare il mondo». Si chiamava Jeanne Antoinette Poisson e nacque a Parigi nel 1721, 6 anni dopo la morte del Re Sole. Il suo padre naturale era un ricco borghese di nome Lenormand, che capì subito il talento di questa ragazzina e le diede i migliori maestri. Pare che nessuno nel suo tempo sapesse cantare, danzare, rimare, montare a cavallo, ragionare e vestirsi come lei. Grande cultura, grande finezza, grande bellezza. Quando aveva 20 anni, era la meraviglia di Parigi. Attirava tutta Parigi proprio per il piacere di vedere lei, in casa del signor de Siol, suo marito. A casa loro, cioè nel loro palazzo, c'erano dei lussi che mancavano persino nella reggia di Versailles. Antoinette crebbe all'ombra di Voltaire, che era un cortigiano della sua corte. Li aveva naturalmente tutti ai piedi, i maschi dell'epoca, ma non tradiva il marito. Antoinette era troppo orgogliosa per i piccoli amori. Aveva un grande successo, ma non le bastava. Lei mirava alla gloria. Lei era un avventuriero imprigionato in un corpo di donna e una sola cosa le restava: conquistare il re, perché soltanto il re, che allora era Luigi XV, poteva farla risplendere secondo il suo merito. Lei vedeva il re come la cornice preziosa di una gemma molto più preziosa, lei stessa. Antoinette sapeva che il re andava a caccia nel bosco di Sanar. Per mesi preparò la sua scena. Si fece trovare sul cammino del re, nel bosco, all'ombra dei pioppi, sull'erba di un prato. E i valletti, gli amici, le dame, i cani, erano un quadro studiato in ogni dettaglio per colpire l'occhio del re. Non una piuma, un gioiello, un collare che fossero lasciati al caso. Erano tutti ornamenti della sua bellezza. La carrozza era cesellata d'oro. Lei scrive: «Mai i soldi di mio marito furono spesi meglio. Avevo scelto con cura la biancheria, ben sapendo che ci saremmo visti solo da lontano. Ma io dovevo sentire tutto intero il fascino della mia persona, puntando lo sguardo sul re. Vi misi tutta l'adorazione che avevo per me stessa». Ed ecco arriva il re, bello, giovane, con un grande cappello piumato, alla testa dei cavalieri e delle dame. Si misurano da lontano perché si stanno incontrando due grandi attori. Lui ha 35 anni, lei 24. Dopo mesi e mesi di preparazione, lo spettacolo fu consumato in un istante. Il re la guardò, non si fermò, ma si girò una seconda volta a guardarla. Ed era apparsa a tutti così sovranamente bella che l'amante in carica, che allora era la duchessa di Château Rouge, le intimò di non farsi mai più vedere. E lei obbedì, ma sapeva attendere. Poco dopo, per fortuna sua, la duchessa morì e il re la mandò subito a chiamare. La ricevette a Versailles, in segreto. Il grande momento era arrivato. E Antoinette sbagliò tutto. Trattò il re con una confidenza prematura. Lo allarmò parlandogli di economia, tirando fuori tutta la sua cultura, che il re era ignorantissimo, si spaventa subito. Ed ebbe l'imprudenza di dirgli: «Ora, maestà, non potrete più fare a meno di me». Tornò a casa, convinta di averlo conquistato. Invece il re scomparve. Antoinette si ammalò di rimorsi. Rimuginava continuamente: «La donna per una sera, io». Capiva i suoi sbagli. avere un'altra possibilità. Questa volta farebbe tutto come si deve. Intanto si diceva: io so tutto di lui, di quel ragazzo cresciuto dai gesuiti nella paura del castigo. Gli ha messo una tale paura della donna come porta dell'inferno che per tutta l'adolescenza ha conosciuto il piacere solo coi maschi. Finché si sono preoccupati e gli hanno trovato una moglie, quella spilungona di Maria Lezinska, una vergine di 22 anni. Lui ne aveva 15 e non aveva mai toccato una donna. La novità gli piacque. Inaspettatamente gli piacque, anzi ci prese tanto gusto che fece fare alla moglie un figlio dopo l'altro. E le fu così ingenuamente fedele da sfiancarla con le maternità. E dopo averla ridotta alla mucca quadrata che adesso, passò alle altre. Era così affamato da farsi turlupinare dalle sorelle Nesle, tutte cinque, una più brutta dell'altra, meno una, la Ventimiglia, che fu subito avvelenata dalle sorelle. Una vera donna non l'ha mai toccata. Con la regina erano giochi da ragazzi e le Nesle, corpi lenti, senza moto. Nuoto, scherma, danza, io sono un atleta. Tornerà, sì da me, deve tornare. Ma il re non tornava. La fece soffrire per dei mesi, si divertì a lasciarla nell'incertezza e dopo averle fatto capire chi era il padrone, la rimandò a chiamare. Ma Antoinette aveva imparato. Sapeva a questo punto che non doveva parlargli di politica, non subito. Ci sarà tempo per regnare. Ora doveva essere la donna che lui voleva. Doveva essere femmina. E proprio questo le mancava. Lei aveva tutti i doni, meno questo. Il suo corpo era freddo. Lei era fatta per essere vista, udita, adorata, ma non aveva il dono del sesso. Si riempiva di droghe. Comincia a prendere droghe su droghe per inventarsi la lussuria. E riuscì a diventare il simbolo della lussuria senza conoscerla. Lei faceva teatro, accendeva i sensi del re, sfrenava la sua immaginazione, ma dirigeva gelidamente il suo delirio. Era un illusionista e fu mio nei sensi, mio nel fremito e nel respiro. Però quegli amplessi erano una tortura. Allora per una donna fare l'amore voleva dire partorire o abortire. E per un piacere che non sentì mai, Antoinette sopportò col sorriso 24 aborti. Il re non tollerava i musi. Ma mica bastava il letto, magari. L'erotismo era solo uno dei tanti talenti che occorrevano per divertire Luigi XV, ovvero l'uomo più annoiato del mondo. E fu il capolavoro della Pompadour. Non fare mai annoiare il re, neppure quando si annoiò di lei. Una vita senza tregua. La guardiana del faro. Stavamo parlando della storia di Madame de Pompadour, che ancora si chiamava Antoinette de Sioles, quando diventa amante di Luigi XV. Era un grande scandalo averla a corte perché lei non aveva un titolo nobiliare. E allora lui rimediò subito, la elevò di rango e la nominò Marchesa di Pompadour. Fu uno scandalo che ammutolì la corte, cioè che la fece parlare giorno e notte. Una borghese, non se l'ha mai visto. In mezzo a nobili che erano mortalmente gelosi del re e del proprio rango. E a corte si cominciano a fare delle scommesse su chi riuscirà per primo ad avvelenare la neomarchesa, perché ce n'erano moltissime di persone che volevano farla fuori. E la Pompadour non toccava acqua né cibo senza darla prima ad un assaggiatore. Gliene morirono due sotto gli occhi. Questo era il clima. Ma il pericolo più grande, più del veleno, erano i preti, perché per loro la Pompadour era il diavolo. Si era fatta quell'aureola di maga del sesso, che poi era pure usurpata, ma tutti ci credevano. E poi proteggeva i sovversivi, proteggeva Voltaire, Buffon, Montesquieu, Diderot e perfino quel maleducato di Rousseau. L'estate era la stagione della Pompadour, dei preti se ne rideva, ma poi venivano ogni anno il Natale e la Pasqua, ed era il momento dei preti. I preti rifiutavano i sacramenti al re se non l'avesse prima allontanata e ogni volta cercavano di farla sparire per sempre. Come il re Sole, Luigi XV era bigotto e libertino. Era ghiotto del cielo e della terra. Per avere la comunione faceva il pentito, ma appena ingoiata l'ostia correva dalla sua amante. Ormai lei era diventata veramente potente. Il re non faceva più niente senza consultarla. Ormai la Pompadour nominava ministri, dichiarava guerre. quei nobili che la disprezzavano impararono a temerla. Non si arrivava al re se non attraverso di lei, e quando odiava, odiava. Federico II di Prussia pagò con una guerra la sua mancanza di riguardo verso la favorita. All'epoca l'amore della Pompadour per il re era una rete che sosteneva l'amore per il potere. La figlia, piccola, che era rimasta col padre, morì a 4 anni, dissero avvelenata. La Pompadour amava teneramente questa bambina e di più da quando aveva dovuto lasciarla. Cioè, dovuto, voluto. Ma non poté piangere. Bisognava sorridere per il re. 2 giorni dopo la morte della bambina, per dimostrare al suo amante che il divertimento di lui era più sacro del suo lutto, recitò nel loro teatro. Però bisogna dire che, fra tanti tormenti, e lei viveva fra i tormenti, il teatro era l'unico sollievo. Lì poteva diventare per lui 1000 amanti e per sé 1000 donne diverse, cambiare abito e anima ogni giorno. Si moltiplicava, la stanchezza era proibita. La Pompadour non era un amante, era un soldato. Mai una linea di febbre, mai una licenza. Sempre pronta a saltare in carrozza per questi viaggi massacranti che il re decideva sempre all'ultimo momento. Né la guerra di corte, né le cattiverie delle rivali, né l'odio del popolo che dava a lei tutte le colpe, sfinirono la Pompadour tanto come i viaggi in carrozza con il re. Nemmeno i preti. Perché bisogna immaginare cos'era un viaggio in carrozza allora. Cioè, una vita per le strade di Francia. Viaggiare in carrozza voleva dire ore e ore di scossoni. Ma, per la favorita e per le altre donne del seguito, senza il permesso di scendere. Una donna in quel secolo poteva avere 10 amanti, discutere dell'esistenza di Dio, ma non avere bisogni corporali. Il re svolgeva le sue funzioni, come noto, fra i suoi cortigiani prediletti, ed era un grande onore, contesissimo, assistervi. Ma quelle manifestazioni, che nel re erano divine, gli apparivano disgustose nei sudditi, e nelle suddite specialmente. Si racconta questo episodio: un giorno d'estate c'è la carrozza piena di spuntini, già ore e ore di viaggio, e già la Pompadour avrebbe una sua necessità. Ma il re invece si diverte a rimpinzarla. Le dà dolci, uva, prugne. Alla fine le viene una colica. Impallidisce. Il re, subito seccato, le dice: «Che avete, madame? Qualche brutto pensiero?» Con grandissima fatica la Pompadour riesce a sorridere, perché la disgrazia di un'altra favorita, che era venuta prima di lei, di Madame de Mailly, era cominciata per la sua incontinenza in carrozza. Il re aveva cominciato a chiamarla con tutti quella pisciona e ne rideva. E così Antonette, per non fare la fine di Madame de Mailly, sorride, sorride, sorride, suda, suda e sorride, finché sviene. Sviene fra le braccia di lui, che la scosta ruvidamente e dice: «Ecco un'altra che vuole rovinare i miei viaggi». Lui però scendeva quando voleva. Né come re né come maschio, la Pompadour invidiò tanto il suo amante come per la sua libertà di spandere acqua in viaggio. Я много лет пиджак ношу, давно потерся и не нован. И я зову к себе портного и перешить пиджак прошу. Dopo quello svenimento il re a lungo resta in collera. E c'è tutto un movimento a corti, i nemici esultano, le candidate amanti, quelle che vogliono prendere il suo posto, la favorita sta per cadere in disgrazia. E finché si presentò un inventore. Un inventore che aveva inventato per lei la macchina del tuono. Era una grossa scatola di legno, portatile, elegante, ideale per i viaggi in carrozza delle dame. Le spiegò: alla partenza vi ci sedete sopra e nessuno si accorgerà di niente. Era insonorizzata, a prova d'odore. La macchina del tuono rese la Pompadour l'unica in grado di sostenere il ritmo delle scorribande regali. L'inventore fu fatto conte. Poi bisogna dire, appunto, questo lo sanno tutti, ma insomma, che la Pompadour spendeva, è vero, però spendeva molto per la grandezza della Francia. Fece edificare il castello di Bellevue, impiegò artisti come Falconet, Boucher, Fallot, Oudry. A lei si dovette la libera circolazione della enciclopedia, le porcellane di Sèvres, la scuola militare di Saint-Cyr. Il delfino la chiamava Madame Putain, però Madame Putain era stata forse il più grande uomo politico di Francia del suo tempo. E poi la disgrazia. La Pompadour era stata la più bella. In poco tempo diventò la più brutta. Il suo corpo non resse più alla finzione, alle droghe, ai cosmetici mortali, ai viaggi, ai supplizi per mantenersi giovane, alle finzioni a letto. E invecchiò di colpo. A 34 anni era da buttare. Quando il re la scacciò dal letto, in un lampo lo seppero tutti. Luigi e la sua amante non erano mai soli. Un occhio di serva o un orecchio ducale li spiava nel buio. La Pompadour, come una pazza, guardava sotto il letto, guardava negli armadi. Era inutile, perché tanto la prima spia era il re. Quando la cacciò dal letto, fu lui a dire ai nemici di lei che non la toccava più, che gli faceva ribrezzo. E si scatenò subito, feroce, la gara per trovargli un altro amante. Ma la Pompadour arrivò prima di tutti. Fu lei a mettergli la prima ragazza nel letto. Diventò la sua fedele, la sua disciplinatissima ruffiana. Questa è lei che parla. Dopo di me, il re si buttò sulle donne come un orco. Non gli bastavano mai. E io ero al suo servizio, contenta che fossero tante. Tante, mi dicevo, e come nessuna. Smistavo il turpe traffico delle amanti nel Parco Serf, il bosco regale che nascondeva le case delle donne che il re marchiava, come diceva lui, una volta sola o a lungo. Fui mezzana, levatrice, economa, sicario. Le reclutavo, le istruivo, le vestivo, le facevo partorire, collocavo i bastardi, le licenziavo per non essere scacciata, per essergli necessaria. Le ragazze non sapevano che quell'amante munifico era il re. Mentivo, premiavo, punivo, capo di un bordello che si rinnovava di continuo. Facevo tutto per un suo colpevole sorriso. Era la mia ricompensa per quel dolore ignobile nel quale sprofondavo ogni giorno di più. E non sempre furono capricci. Il re si innamorò veramente della Romain, pura, alta, allegra, sedicenne. Io facevo finta di niente. In quell'ordume lo amavo in silenzio, con pudore, come una collegiale. Tutto si era rovesciato. Il mio potere era diventato una rete che sosteneva il mio amore per il re. Portavo i suoi doni alla Romain, doni bellissimi, come se fosse stato un gioco, ed era la mia morte. Volevo essere l'amico del re. Morì divorata da quell'esercizio contro natura. Morì, per troppo dolore, quasi santa. Non fu l'ambizione politica che mi consumò, ma l'ambizione di essere la sua complice. Lui lo sapeva. Sapeva di uccidermi e aveva per me l'attaccamento dell'assassino per la vittima. Scrissero di me l'ultimo anno. Che vecchiezza! Che forme degenerate! Che orrore quel viso! Crede di sotterrare sotto una maschera di trucco la sua bruttezza. La sua allegria ha qualcosa di diabolico. Il sorriso è uno spasimo. Ha ancora grandi e begli occhi. Ma quale sguardo esce da quelle caverne? Dalla sfida che avevo lanciato al re, mi ritirai solo con la morte. Avevo 43 anni. Pioveva di rotto quel giorno. Con me c'era solo una vecchia serva dagli occhi asciutti. Mi portarono via alla chetichella. La morte non era ammessa a Versailles. Il re pianse. La mia morte ci aveva liberati entrambi. Опять в твою любовь поверю. La storia della Pompadour è tratta da un libro che sto scrivendo, che sarà pubblicato da nottetempo. Non so dire quando. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mia cognata mi ha messo contro mio fratello per una gelosia assurda. Lui stravedeva per lei, ma lei seccava che mi volesse bene e ha ordito l'intrigo più banale, che però riesce sempre. A me riferiva frasi odiose di lui, che mi facevano immaginare cose ancora peggiori. Lui era sempre più ostile. Cosa gli riferiva di me? Non lo saprò mai. Quando stavo per chiedergli una spiegazione, è morto in moto. Ho pregato mia cognata di dirmi la verità, che io sappia almeno cosa gli ha fatto credere. Sii sincera. ma lei nega e mi lascia col tormento di credere che mi sono inventata tutto. Marta, triste. Ma cara Marta, ma sei matta? Ma dire un bugiardo, sì, sincero, presuppone di avere dei poteri magici. Perché come dire a un gatto, sì, cane. La puoi trasformare? No. Il bugiardo intrigante non distingue il vero dal falso. Crede che la verità sia ciò che gli conviene. Il male è fatto. Spera nel tempo, non in lei. Insistendo, puoi farti solo più male. La tecnica di Iago è infallibile. Lui riesce a diventare il tramite fra i due sposi. Se Otello e Desdemona si fossero parlati, Shakespeare non avrebbe scritto una tragedia, avrebbe scritto una commedia, perché i nodi sarebbero venuti al pettine. Noi crediamo sempre di avere tempo per spiegarci con i nostri cari. Ahimè, purtroppo non è così. Ho 36 anni, ma ne dimostro 23. E quando lui, 48, mi ha incontrata, si è lasciato ingannare dal mio aspetto di ragazzina. Quando poi si è accorto che avevo esigenze da donna, si è ritratto come un riccio. Mi spiego meglio. Incontro, grande amore, grandi parole, mi baciava appassionatamente le mani. Passano 2, 3, 9 mesi e non succede mai niente di più. Finché un giorno, esasperata, ho preso l'iniziativa ed è stato bellissimo. Siamo andati avanti 3 ore, di estasi in estasi. Da quel momento, la fuga. Sta anche 2 mesi senza cercarmi. Poi, se lo cerco io o ci vediamo per caso, mi dice che sono il suo amore, che sono importantissima per lui. Ma anche se non lo dice, capisco che ha terrore di essere di nuovo toccato. Io lo amo. Sono pronta ad aspettare, a fare il suo gioco, a non spaventarlo più. Ma ho le esigenze di una giovane donna. E per non ammattire, mi sono trovata un ragazzo col quale vado a letto. Non dirmi di lasciar perdere, non ci penso nemmeno. Il nostro match è appena cominciato. Ho capito che sarà una strada lunga, ma se spera che io molli, sta fresco. Faccio bene. Certo non è una vita comoda, se pensi che ho 3 figli da un matrimonio precedente e che devo guadagnarmi la vita per me e per loro. Lorenza. Tu mi chiedi, Lorenza, faccio bene. E che me lo chiedi a fare, tu che sei così testarda? Tu hai puntato quest'uomo. Tu resisti alla sua resistenza e sistemi la tua vita in funzione dell'attesa. Come scrivi, hai le esigenze di una giovane donna. Per quello ti sei trovato un giovane uomo, una specie di idraulico provvidenziale che sistema la parte carnale e ti consente di farti baciare le mani senza una frustrazione troppo grande. Ora io penso che la castità, l'attesa, sono bellissime, però devono essere condivise. Ma qui è soltanto lui che ha orrore dell'atto fisico, o almeno dell'atto fisico con te, perché non sappiamo con altri. Tu non vedi l'ora di mettergli le mani addosso, perché se c'è l'amore viene naturale, a chiunque, ma a lui no. Questo uomo dei tempi nuovi, che è simile a una vergine dei tempi antichi, e non si dà, vuole che si rispettino i suoi tempi, magari 2, 3 anni, chissà 10, magari sempre. Di solito la tecnica migliore è non forzare, però non è sicura, perché bisogna vedere da cosa dipende. È uno squisito senso musicale dell'eroismo, un taoismo naturale, o una nevrosi, o magari gli piacciono i maschi, o magari sei proprio tu che non gli piaci. Forse è soprattutto un solitario, un egoista convinto che ha orrore di mischiare davvero il suo corpo con quello di un altro. Forse non è una nevrosi, ma una vocazione. E in questo caso sarebbe meglio combattere con 10 meravigliose rivali. Il punto è che non so se ti devi fidare del tuo istinto, perché qua e là, nella tua insistenza, affiora l'ossessione, affiora la persecuzione. E se provassi semplicemente a lasciarlo in pace? Finché non ho incontrato lei andava benissimo, ma lei mi ha fatto perdere la testa. A 22 anni, una vita tutt'altro che limpida e forse anche un altro. Io trascuro il lavoro, sono geloso, sto uscendo dalla realtà. Per lei mi sto giocando la vita. Ti giochi la vita? Ma scusa, e che altro ti vuoi giocare in amore? Se non te la senti di rischiare nemmeno la vita, va a fare carriera, che è meglio. L'amore non è per te. Qualche giorno fa vi ho parlato dal faro di questa manifestazione che c'è ad Oristano, che ci sarà fino al 22 aprile, inventata, organizzata e realizzata da Filippo Martinez, che si chiama Corso per la prevenzione dell'idiozia. con relatori come Giulio Giorello, Vittorio Sgarbi, Pietrangelo Buttafuoco, lo stesso Martinez, Claudio Ciaravolo e via dicendo. E tra questi relatori c'è stato Gianluca Nicoletti. Quando io sono arrivata lì per fare la mia prolusione, sono stata accolta benissimo con le trombe, le bandiere, le grida, perché c'era ancora, era rimasta un po' l'aura dell'intervento di Nicoletti. Aveva lasciato una grande ilarità, aveva lasciato una scia come se fossero passato qualcuno a metà tra Benigni e Padre Pio. Abbiamo la fortuna di poter sentire dalla voce di Nicoletti come sono andate le cose. Com'è andata Nicoletti a Oristano? Beh, io ho stato chiamato a parlare dell'idiozia in internet, era un argomento serissimo, e parlai naturalmente di quello che è il campo di attenzione e di studio degli ultimi anni, dei rapporti mediati da macchine, dei rapporti incorporei, dell'immaterialità come valore nelle relazioni attraverso internet. Poi alla fine, per dimostrare che tutto questo ormai vada fatto il suo tempo, mi esibì nella sollevazione di piazza, che è una cosa che sto facendo da vari mesi. Vado in giro per Piazza d'Italia e sollevo donne. Le sollevo per motivi particolari, filosofici, personali. Secondo me le donne hanno bisogno di trovare uomini che si prendano il loro peso sulle spalle. Peso concreto, carnale, piacevole, divertente. Quindi vado in piazza, dico: chi vuole essere sollevata? Si fa una fila di donne, una dopo l'altra, le prendo sulle spalle e poi spariscono, non le vedo mai più. Ora accadde che, siccome le leggende crescono, nascono e si propagano in internet, girava la voce da qualche settimana che nella mia ultima sollevazione che feci a Viterbo, agosto, era una notte bellissima, favolosa, dopo qualche settimana mi scrisse un signore dicendo: guarda, io e mia moglie da anni cerchiamo di avere un figlio, abbiamo provato tutto, siamo andati all'estero, le inseminazioni, le fibrillazioni, non ci siamo riusciti. Io ho portato mia moglie a sollevare la notte a Viterbo in piazza, la sera, una bella serata, ci siamo congiunti, poi tornati a casa, beh, mia moglie è rimasta incinta. Siccome ha una certa età, lo troviamo sia miracoloso. L'ho presa a ridere, ma naturalmente l'ho raccontata a tutto il mondo, e l'ho raccontata anche a Oristano quella sera. E accadde una cosa divertente: finita la manifestazione, le saprà, poi sono i tamburini, la banda, ci portano tutti in trionfo. Fui chiamato da una parte da alcuni signori e signore proprio lì, oristanesi, mi disse: ma verrebbe a cena da noi, dovremmo sottoporle un caso. Andai, mi portai dietro Martinez, la moglie e tutti gli amici. Andammo in una bellissima casa, non dico esattamente la contrada per motivi di privatezza. Ci allestirono una cena fantastica. Un tavolo sembrava un tavolo di un matrimonio. Mangiammo delle cose che mai nella vita mangiai. Delle cucine raffinatissime che faceva un cuoco bravissimo. Ero circondato dall'affetto e dall'ammirazione. Mi sentivo quasi un pascià di tutte queste signore. Alla fine della cena mi proposero di sollevare la padrona di casa. Era una bella donna, una professionista, sui 40 anni. Anche lei aveva quel problema che avrebbe voluto avere un figlio, ma era ormai, nella freddezza dei termini clinici, una primipara tardiva sarebbe stata. 40 anni è difficile, anche lei aveva provato tutto, il contrario di tutto. E lì davanti al marito, davanti a una serie di signore sarde, vestite in costume sardo, impenetrabili, silenziose, che mentre mi riempivano di dolci, annuivano con la testa, un po' turbate, un po' arrabbiate, mi sento: io vorrei essere sollevata, vorrei provare un figlio. Io mi millantai a questo punto una perfetta conoscenza dell'arte sollevatoria finalizzata all'ingravidamento. Dissi: sì, però è necessario che voi vi congiungiate, suggerì anche, non so se può dire alla radio, la postura necessaria, esattamente un istante dopo la sollevazione. Mi presero sul serio. Allestirono, si misero tutto il cappotto, con la borsa, con l'ombrello, tutti sull'androne di questa casa fantastica, arredata in maniera fantastica fra l'arcaico e il modernissimo. Al centro di questo cerchio di donne che mi guardavano come femmina cabadoras, e di uomini, tutti con l'ombrello pronti a scappare via, io presi la signora, la sollevai, il marito già aspettava nella camera nuziale sopra, e scappammo tutti di corsa. Nonché la moglie di Martinez aveva lasciato il cellulare dentro, quindi quando già eravamo nelle automobili si ricordò del cellulare, e corsa indietro a bussare per riprendersi il cellulare. E non gli hanno aperto. Non gli hanno aperto. Il cellulare è rimasto lì e non gli hanno aperto. Solo che non so come è andata a finire. Io spero che la sollevazione, in questa sua accezione ingravidatoria, abbia avuto effetto. Bene, c'è al telefono la destinataria di questo miracolo. Abbiamo al telefono Angela, la signora che ha potuto fruire del metodo Nicoletti. Angelina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, ma com'è andata? C'è stato il miracolo poi? La guardiana del faro. Per me? adesso c'è qualcuno nel faro? Senza parole. Carlo D'Amicis è qui in visita. Ciao Barbara, come stai? Carlo, grazie, ma come sei arrivato? Sono arrivato a piedi, camminando. Camminando? Beh, quello che mi piace fare, camminare. È già venuto come naufrago Paolo Villaggio, ma la tua presenza è così lieve. Così lieve al prossimo, te non credo, giudicando i tuoi libri. Ti do il benvenuto parlando di te, questo scrittore che, ecco, io devo dire cosa penso della scrittura e della lettura. Leggere un libro in sé non è un esercizio salvifico, può essere nefando e può essere un frivolo passatempo e anche un appesantimento. Il libro deve essere qualcosa di veramente importante. I libri di Carlo D'Amicis, quando li ho letti, sono stati una grande esperienza. C'è un verso di Blake, fa ridere quel riso che una volta riso affine ogni miseria. Ecco, questo ho trovato in questi libri sorprendenti di quest'uomo così modesto, così invisibile. È talmente troppo modesto che andrei a questo punto, invece no, mi devo fermare, mi devo sedere. Sì, ti devi dobbiamo sedere. Parlarne. Sì, ti devi sedere, perché c'è questa capacità nei suoi libri di essere altissimo, direi addirittura teologico, e poi di farti schiantare dal ridere. Perché c'è un senso comico, non so come dire, fai tutte le risate che non hai mai osato fare su te stesso fino a quel momento. Ma poi, sai, ridere è un esercizio di crudeltà, non, ma ridere di se stessi è la cosa forse più tagliente che si possa fare nei propri confronti. Non ci metterei tanta differenza, non ci metterei una linea di divisione tra la crudeltà e l'inflessibilità, anche del raccontarsi, insomma, e il riso, e l'umorismo, e l'ironia. Giustamente l'autore mi corregge, perché effettivamente la cifra dei suoi libri è la tortura, e anche come tutti i torturatori ti sa portare dentro. Se uno per esempio legge Amor Tavor, ha una storia d'amore di una bellezza che quasi ti assolve di tutto quello che ti è andato male in amore e nel resto. La storia di questo bambino 8-9 anni che si innamora per sempre di questa ragazzina più grande di lui, che ne avrà 16-17, che è l'amante dello zio gigante. E c'è questa scena di seduzione di questo piccolo demonio. Sono tutti dei piccoli demoni le ragazzine dei suoi libri. E questa ragazzina cammina un po' e lui si sporca le mani. E allora lei si china a fare la pipì, gli lava le manine con la pipì. E questo rito lo legherà per sempre a questa donna. E ci sono tutte le bassezze d'amore che fa un bambino di 10 anni, di 12, di 15, che sono poi quelle che si faranno per sempre, quando chiameremo poi questa infanzia. Per sempre, perché poi nel racconto diventerà un uomo grande, un uomo adulto e perfino un vecchio, e continuerà tutto sommato a pensare, che poi è quello che succede, credo, insomma, alla fine c'è sempre un adolescente che rimane lì anche a contraddirci spesso, però a far sentire la sua voce. E rivedrà questa donna, dopo aver passato... Non ci sono le tecerchie di fuoco per andare da Brunilde, non ci sono altre prove d'amore che possano stare alla pari con le prove che questo ragazzino cui si sottopone per arrivare di nuovo a lei. Addirittura farà il buon samaritano, passerà con tutti per essere un santo, perché assiste lo zio fino alla morte, ma poi sarà premiato con una tortura ancora più grande, finalmente la raggiungerà. È lì, dopo che lo scrittore ti ha acciuffato dentro, portato in questo vortice, lì ti dà anche il rovescio di quello che sei tu, pronto a tutto, cosa vuol dire. Tanto che quando poi alla fine il protagonista si suicida, dice: finalmente sono libero, finalmente libero lui, e sono sempre liberi sulla impossibilità dell'amore. Sull'impossibilità e anche sul rovescio un po' dell'amore, era questo che mi interessa anche, perché secondo me l'amore ha una, come posso dire, ha un'opinione pubblica superiore a quello che è. È sopravvalutato, dici? Dell'amore. Per dire una parola volgare. Forse, o quantomeno si trascurano certi aspetti che ne fanno parte in maniera fondativa. Gli aspetti negativi dell'amore, il disturbo della presenza. Sono Werther, cioè il fatto di non essere corrisposti, o Romeo e Giulietta, Giulietta e Romeo, ovvero l'amore contrastato, no? Qualcuno che impedisce. Tutti amori che hanno la fortuna di non realizzarsi. Esatto. Però c'è qualcosa oltre l'amore contrastato e l'amore non corrisposto, che è l'amore realizzato, ma che al suo interno ha tutta una serie di conflittualità, di solitudini, di forme di incomunicabilità, di forme di potere, perché ogni relazione d'amore è una relazione in cui si instaura un rapporto di potere. Poi naturalmente si sana tutto questo, si cerca di farlo, ma spesso non si sana. E quindi per amore, dentro l'amore si soffre moltissimo, secondo me, e di questa sofferenza si parla poco, di questa nevrosi che spesso finisce per diventare l'amore, si parla poco. Io sto parlando naturalmente dell'amore di coppia, ma in realtà non solo, anche dell'amore genitoriale, insomma, il troppo amore dei genitori è qualcosa che può fare molto male. In realtà poi quando si parla dell'amore si dice sempre che finché c'è l'amore va tutto bene, ma lì dentro si nascondono tante, tante insidie, e questo racconto, questo romanzo è una maniera anche per attraversarle queste insidie, per riviverle come io un po' poi alla fine le ho vissute. Qualche volta mi sembra veramente anche che le risate matte che fanno fare i tuoi libri siano proprio un trucco per farci poi piangere disperatamente, che ci attiri dentro. Io avevo scritto degli appunti su questo tuo libro su Amor Tavor: è una macchina della sofferenza, altro che Kafka. La colonia penale è ogni nostro pensiero, e l'amore poi non ne parliamo. Quest'amore poco a poco di Amor Tavor che ci stridola proprio, ci strangola. Abbiamo questa terribile impressione di essere proprio noi, di essere ognuno che legge, anche se non ha quel tipo di esperienza. Anche se appunto questo schiavo d'amore è statico, è felice, felice fino alla morte, fino a morire. Infatti la staticità è uno dei suoi problemi. Io sono arrivato qui camminando, appunto, perché io credo che il movimento sia la felicità. Una volta questa frase mi colpì, non ricordo nemmeno dove l'ho sentita, ma insomma ne ho fatto un po' uno dei comandamenti, cioè la felicità io non so cos'è, però sono sicuro che si muove, è qualcosa che non sta ferma. Quindi tutto quello che è statico mi fa paura, tutto quello che si è bloccato e non riesce più ad andare avanti, a non trovare più una maniera per ripartire, mi fa paura. E spesso dentro l'amore c'è questa staticità, c'è questa incapacità di trovare anche dei traguardi, degli obiettivi, insomma, è uno dei pericoli, è uno dei problemi che ha questo personaggio, questo protagonista. Vive del suo amore, si nutre del suo amore, ma questo amore lo inchioda. E questo essere inchiodati è... Lo inchioda e lo rende incapace anche di vedere, di capire l'altro, perché l'altro è soltanto, è veramente la sua vittima. Lui sembra, è fisicamente la vittima di questa donna, ma poi in verità è... Chi si rifiuta di vederla, questa donna, nell'adorazione, è lui. Lui attraverso questa adorazione mette un muro invalicabile. È una storia di straordinario, altissimo solipsismo. È un altro dei problemi dell'amore, insomma. Una volta una persona che amavo mi diceva, ogni volta che io dicevo qualcosa di carino nei suoi confronti, di bello, ma io pensavo di dirlo sinceramente, mi diceva: tu non conti, perché tu mi ami, tu mi vuoi bene, quindi tu non sei niente di me. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.